Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Quella di oggi è la prima giornata europea contro le mafie. Dal prossimo anno si celebrerà tutti i 23 ottobre. Una proposta nata dagli europarlamentari italiani, mentre in contemporanea nell'emiciclo del Parlamento europeo arriva la relazione sul crimine organizzato in Europa. La presidente della Commissione Antimafia del Parlamento europeo, Sonia Alfano, l'ha intervistata Maria Luisa Pezzali. Questa è una svolta epocale, rappresenta la pietra miliare, la nuova forma di contrasto a tutte le mafie, a tutti i sistemi criminali organizzati in Europa. È un testo che introduce per la prima volta la criminalizzazione del reato di associazione mafiosa, che prevede l'abolizione del segreto bancario, che prevede la incandidabilità per tutti coloro i quali abbiano riportato delle sentenze definitive, prevede la decadenza, prevede soprattutto il divieto per tutte quelle aziende, quelle ditte che hanno riportato delle sentenze di condanna, anche non definitive, di partecipare a gare di appalto per 5 anni, l'individuazione dei paradisi fiscali e la loro criminalizzazione, tutta una serie di misure a tutela dei testimoni di giustizia, delle vittime innocenti della criminalità organizzata e delle mafie. E abbiamo introdotto non solo il sequestro, la confisca, ma anche la possibilità del riutilizzo a fini sociali rispetto a tutti quei patrimoni che sono frutto di preventi illeciti. Noi abbiamo cercato di mutuare il meglio della nostra legislazione antimafia. Norme italiane dunque che da oggi valgono per tutta l'Europa, e presto potrebbe arrivare anche il procuratore europeo proprio per contrastare al meglio i crimini contro le frodi comunitarie e gli interessi finanziari dell'Unione Europea. È stato presentato il progetto sostenuto dalla Commissione Europea alla giustizia, Vivian Reding. Intanto passi avanti sul bilancio. Il Consiglio ha approvato la rettifica con i 2,7 miliardi di euro chiesti dalla Commissione Europea per non chiudere i pagamenti e dichiarare lo shutdown dell'Unione Europea a metà novembre. La palla è ora nelle mani della Commissione Bilancio del Parlamento a Strasburgo. In tutto mancano 3,9 miliardi di euro. Conti anche a livello dei singoli stati, dei quali si discuterà domani e venerdì a livello di capi di Stato e di Governo a Bruxelles, con l'imperativo, secondo la nuova bozza in esame, di rendere più rigido il controllo dell'Unione sugli stati di Eurolandia, come chiede la Germania di Angela Merkel. Domani si parlerà anche di immigrazione, bisogna fare di più per prevenire stragi come quella di Lampedusa, ha ribadito nell'emiciclo di Strasburgo questa mattina il presidente della Commissione José Manuel Barroso, e dal Parlamento europeo si prova a ripartire con una risoluzione comune. È una partita lunga e difficile quella che l'Italia intende condurre a Bruxelles per far sì che la questione dell'immigrazione clandestina venga considerata un problema europeo e non meramente nazionale. Alla vigilia del vertice di 2 giorni che riunirà qui a Bruxelles i 28 capi di Stato e di Governo dell'Unione, l'impressione è che il governo italiano riuscirà a strappare parole di circostanza e magari un rafforzamento del coordinamento delle politiche nazionali nel controllo delle frontiere. Obiettivi più ambiziosi sono irrealistici in questo momento. Le elezioni europee e il timore di rafforzare i movimenti populistici inducono molti governanti alla cautela nel trattare una questione, l'immigrazione, che è molto controversa. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Europa che intanto riapre ufficialmente i negoziati di adesione con la Turchia dopo 3 anni di stop. La data fissata è quella del prossimo 5 novembre a Bruxelles. Ankara è ufficialmente candidata ad entrare nell'Unione dal 1999, ma ha cominciato i colloqui solo nel 2005, incassando fino ad ora l'apertura di 13 capitoli negoziali sui 35 previsti dal processo di integrazione e chiudendone solo uno. Il 5 novembre si riprenderà dalla questione delle politiche regionali. Noi a Radio 24 con l'Europa ci risentiamo invece domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.